Io invece mi chiamo Giuseppe, sono un allevatore dell'Odigiano, appunto, e praticamente mi sono trovato l'azienda, la cascina, e ho iniziato ad allevare vacche con passione. Ho fatto gli studi, mi sono laureato in scienza della produzione animale. E mi sono appassionato soprattutto del comportamento e di come allevare le vacche nel miglior modo possibile per farle produrre un latte di qualità. Nella mia azienda produciamo latte con materie prime no OGM, cioè senza alimenti, senza praticamente OGM free praticamente, organismi geneticamente modificati. E facciamo quindi, vendiamo questo prodotto a un'industria che si chiama Colla di Piacenza, e che produce grana padano, e viene poi distribuito dalla Coop. Io sono orgoglioso di questo perché credo molto in una natura sana e senza inquinamenti da modificazioni genetiche. Il nostro è un lavoro duro che lega la campagna, il lavoro dei campi alla produzione di latte, per cui i cereali, i fieni e i trinciati che vengono prodotti nei campi vengono poi trasformati dalle nostre vacche in latte. Cerchiamo sempre di fare latte di qualità, il latte è fatto di acqua e per alcune percentuali in grasso, proteine, e cerchiamo di l'eccellenza, cerchiamo di dare ai poi consumatori un latte di qualità. Io spero che anche qui in città si senta l'esigenza di salvaguardare la nostra natura, la nostra campagna, perché le previsioni future sono di una riduzione. Noi adesso abbiamo 45.000 aziende in Italia che diventeranno nell'arco di 10 anni 25.000. Lentamente il cemento, le industrie, la grande distribuzione sta cementificando completamente le nostre campagne. Spero di trovare collaborazione con i cittadini, perché è difficile sopravvivere, soprattutto le aziende piccole, che sono quelle forse più belle, perché hanno una realtà familiare dove si trova praticamente il padre che munge le vacche, il figlio che segue la campagna e la moglie che è completamente dedica alla famiglia. E queste realtà stanno lentamente scomparendo. È molto triste perché sono delle microeconomie che rendono vivo il paese. A volte in un'azienda agricola lavorano poche persone, però queste persone danno, diciamo, la possibilità di lavorare a tante altre persone, perché dietro a una macchina che fa i palloni di fieno che si vedono nei campi, c'è un lavoro di un'industria che produce queste macchine. Così come le sale mungitrici hanno alle spalle dei lavori, delle industrie che producono le sale mungitrici. Se non riduciamo tutto questo, che è veramente grande, riduciamo la nostra economia. E detto questo, io credo che le vacche sono degli animali stupendi. Non so se sì, prima sono passate le diapositive. Sono animali che danno tutto per noi. Io non potrei vivere senza le vacche. La vacca per fare il latte deve prima fare il vitello, altrimenti di solito è in asciutta in attesa di partorire. Quindi il parto va seguito con molta attenzione perché spesso e volentieri il vitello quando nasce può avere dei problemi durante il parto e quindi richiede molta attenzione anche nei momenti dove magari la notte non si è presenti. Ci vuole costanza, ecco, ci vuole tanta passione per fare questo lavoro. Quando poi la vacca partorisce entra nel ciclo di produzione e il latte poi deve essere venduto con delle caratteristiche di qualità, percentuali di grasso, proteine, cellule somatiche e batteriche. Ora io non so, sto andando avanti a ruota libera e mi farebbe piacere che qualcuno di voi mi facesse qualche domanda, qualche curiosità sulle vacche, sul sistema di allevamento che abbiamo adesso nel nostro Lodigiano, ecco. Sì. Che rapporto esiste tra l'animale e il territorio che deve essere coltivato per il termine delle quali, diciamo? Diciamo che la nostra realtà, la mia realtà, noi abbiamo uno spazio che è relativamente piccolo, perché la Lombardia non permette di avere le estensioni che possiamo trovare in Francia, in Spagna e in America. Allora si cerca di creare un benessere all'animale nel nostro piccolo. Le strutture e la tecnologia ci permettono di ricreare un ambiente ideale per l'allevamento della vacca. La cura del benessere è, diciamo, una delle cose principali che l'allevatore di vacche che ha un minimo di passione deve osservare. Per esempio, ci sono delle gomme che si mettono sui paddock dove camminano le vacche che permettono alla vacca di correre, di stare bene come se fosse in un prato. E anche era questo che voleva. Il foraggio, sì, diciamo che nelle campagne lodigiane si coltiva molto foraggio, trinciati soprattutto, perché ci permettono di abbassare i costi di produzione, che sono piuttosto alti. Il trinciato riesce, almeno noi riusciamo a, col trinciato si riesce abbastanza a sostenere l'esigenza che ha la vacca. Sì. Circa, sì. Sì. No, assolutamente. La mucca, sì, quando partorisce la vacca, il suo piccolo, sì, dopo quanti giorni viene tolto? Allora, mi chiedeva la signora dopo quanto tempo una vacca viene divisa dal vitello dopo il parto, viene allontanato il vitello. Diciamo che le malattie sono molto, diciamo, pericolose per il vitellino. Se l'ambiente è pulito e igienico e nell'allevamento non ci sono problemi, il genere del vitello può stare anche con la mamma 2-3 giorni, il tempo di bere il colostro e poi essere portato in un, diciamo, in un posto adatto per lui. Di solito viene isolato per qualche giorno e poi viene messo in un gruppetto. Ma dato che ci sono diverse malattie che devono essere tenute sotto controllo, spesso e volentieri il vitello viene subito portato via dalla mamma. Prima di tutto per evitare che si crei un rapporto troppo intenso, per cui la separazione, se avviene subito, rimane diciamo meno indolore, diciamo, soffre di meno la vacca, perché lasciando lì il vitellino lei si affeziona e portandoglielo via troppo, cioè lasciandoglielo per troppo tempo, probabilmente soffrirebbe di più. Ma sono soprattutto le malattie che ci spingono a portare via subito il vitello, perché a volte la mamma porta delle sporcizie anche sul capezzolo che poi possono portare problemi al vitello. È una prevenzione, sì. Porti via subito. Allora, io soffrirei come soffrirebbe qualsiasi mamma, però preferisco salvaguardare la vita del vitello. No, giustamente. Cioè, per me è importante che il vitello viva bene. Poi è chiaro che ci sono dei compromessi in tutte le cose. Anche a me piacerebbe lasciare il vitello sotto la mamma per sempre, però la produzione mi obbliga a fare delle scelte anche tragiche. No, nelle vacche dipende. Da latte, non nelle vacche da carne, dove il vitello vive con la madre, però poi viene macellato, mentre invece la vitella, dopo un po', purtroppo, mentre la vitella farà poi la vacca, quindi vivrà per un po' di anni, insomma. Questi sono un po' i compromessi, sono domande che toccano anche noi, perché purtroppo c'è passione nell'allevare, ma purtroppo ci sono dei compromessi che tu devi accettare, perché anche quando la vacca a fine carriera, diciamo, è malata o comunque per qualche problema non può più stare in stalla, tu purtroppo te ne devi separare. Insomma. Non è naturale, perché la vacca potrebbe morire di vecchiaia, invece in realtà non succede. Se non in casi rari, cioè qualche vacca particolarmente, non so, le campionesse, ok, magari quelle muoiono di vecchiaia. Sì. Sarebbe il nostro sogno. Una vacca potrebbe vivere anche 18-20 anni, in teoria. Poi in pratica dipende dalle condizioni in cui è allevata. La tendenza è sempre quella di avere vacche che vivono più a lungo. Questo è quello che si ricerca. Però le vacche possono vivere anche 7 anni in allevamento. Diciamo che uno dei più grossi problemi di riforma delle vacche è la fertilità, no? E questo problema si sta, secondo me, ampliando sempre di più negli ultimi anni, perché io penso, forse è una mia opinione, ma penso che sia condivisa, ci sono delle cause ambientali che hanno portato a peggiorare la fertilità delle nostre vacche, ma forse anche nelle donne, non so, ne abbiamo qui. Per cui il caldo, la siccità, gli stress di fatto hanno diminuito la fertilità nelle nostre mandri. Beh, comunque l'obiettivo è quello di allungare la vita in assoluto, perché diciamo che a livello economico una vacca si ripaga dopo un anno di lattazione, quindi più anni sta in stalla e più per l'allevatore e produce, quindi dà guadagno. È difficile, perché sono tante le componenti. Di certo l'ambiente e l'alimentazione incidono parecchio sulla vita della vacca. Noi si sta cercando di trovare delle soluzioni sempre migliori per allungare la vita della vacca, per renderla maggiormente redditizia, ecco. Ma anche perché è bello vedere vacche che producono nel tempo e negli anni, ecco. Allora, sì, loro adesso c'è la tendenza a lasciarle pascolare 2 mesi durante il periodo di asciutta, che è quel periodo che serve alla vacca per preparare la mammella al parto, e vengono lasciate di solito libere in un campo vicino, altrimenti le nostre stalle sono a stabulazione libera, per cui comunque sono libere, non sono più legate come una volta. Devo dire che se vi capita di andare in Canada, a Toronto, dove c'è una cultura per la vacca che è pazzesca, ci si trova spesso e volentieri nell'azienda a fare dei picnic, e si curano le vacche con una passione veramente incredibile. Lì le vacche vengono tenute legate, ma sono coccolate. Io invito, se avete la possibilità di andare in Canada, visitare queste aziende, perché Io sono stato ultimamente e ho visto delle ragazze, e devo dire che le donne nell'allevamento delle vacche e soprattutto dei vitelli mettono una passione, una costanza unica. Lo dicevo anche a Renata, che io sono rimasto veramente, infatti lì in Canada sono soprattutto le ragazze che si dedicano alla tosatura, vengono pulite, toilettate, sono tenute sui truccioli o sulla sabbia e sono legate, ma vengono munte, curate con un amore che io veramente mi piacerebbe vedere anche qui in Italia e anche in altri posti, ecco, perché è veramente bellissimo. Sono veramente belle, è cultura. Spero che anche qui in Italia arrivi, ci sia la possibilità, perché poi alla fine è un discorso di cultura, di amore per l'animale, di passione. Pian pianino, secondo me, se si darà la possibilità ai ragazzi giovani, ci sono scuole, c'è un'università vicino a Lodi che non è sfruttata, perché non si dà importanza all'agricoltura, all'allevamento. L'allevamento sì, i ragazzi vanno al supermercato, vedono una bottiglietta lì di latte, è lì, ma per fare un litro di latte c'è un costo, c'è un lavoro che parte, che dura un anno, perché la coltura va seminata, va raccolta, poi bisogna dar da mangiare tutti i giorni, il sabato, la domenica, c'è un impegno mentale che è veramente grande, e poi ci si trova questa bottiglia di latte e non si sa da dove arrivi. Io vedo i bambini, la guardano, di questo è il latte, ma il latte viene prodotto da una mammella, la mammella ha 4/4, chi le munge queste vacche li conosce a memoria. Io conosco tutti i quarti delle mie vacche, so che c'è un quarto che produce di più, c'è un quarto che produce di meno. Tanto per dire com'è profonda la questione, non è soltanto la bottiglia di latte in sé, è quello che ci sta dietro, è il vedere che quando prendo in mano la terra, lei da polvere mi diventa latte, perché il passaggio è questo. Io lavoro la terra e poi dalla terra io ottengo il latte. Questo passaggio non c'è. La televisione ti fa vedere che è tutta una cosa finta. Si trova il latte, ma ci sta dietro una mole di lavoro incredibile. E io sono preoccupato soprattutto per le aziende piccole, perché sono schiacciate dai costi. Adesso vediamo che il grano per fare il pane è andato a dei costi esorbitanti. Però tutto questo incide anche sul mais, su tutti i principali prodotti che servono per nutrire gli animali. E queste aziendine piccole, purtroppo, dovranno chiudere. E quando chiuderanno? Chi è che si occuperà delle nostre campagne? Io vedo gli alberi, io mi giro, mentre vengo a Milano, vedo gli alberi che pian pianino scompaiono dalle rive. E dico, ma non è che succederà che diventerà tutto cemento da Lodi a Milano. Eppure il rischio è questo. E poi quando atterri con l'aereo sulla Lombardia, vedi queste aziende e vedi questi appezzamenti, non so se avete fatto caso, che in qualsiasi periodo dell'anno cambiano colore e dici, qui c'è un'azienda, tutto intorno ci sono questi campi, poi c'erano i fossi dove un tempo trovavamo i funghi e adesso non si trovano più, perché non ci sono più gli alberi, ci sono le cosiddette socche, ma i funghi non ci sono più perché c'è l'inquinamento. Poi ci lamentiamo, no? C'è l'inquinamento, però i pannelli solari qui in città non ci sono. Si va in Cina, c'è pieno di pannelli solari. Poi dopo chiudono le strade, e adesso sto facendo, non ci fanno entrare in Milano per colpa delle macchine, ma alla fine dove sono tutti questi pannelli solari che devono mettere? In Cina c'è pieno di pannelli solari. La verità è che è l'inquinamento che sta pian pianino erodendo tutto quello che è la nostra natura.